blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. No, sono partito così per viaggiare, per conoscere un po' che... Eh certo, fate bene voi giovani, per me sarebbe tardi. E ora non mi resta altro che farla finita. Se non fosse stato peccato, peccato mortale, suicidarsi, io lo avrei già fatto da tempo. Certo, ci vorrebbe un modo che facesse sembrare la cosa casuale, accidentale. Ed io l'ho trovato. Un bel incidente d'auto. Quanta gente muore sulla strada. Uno corre perché ha freddo, poi si capovolge con la macchina, è un caso, no? Voi pensate che se ne accorgerebbe? Allora, se ne accorgerebbe. Loro sempre se ne accorgono. Che... andate via. Cioè, loro se... pure io a volte faccio certe cose che... Questo è un indimenticabile Troisi che prende un passaggio in auto da un pazzo che cercava la morte, cercava il suicidio, e quindi naturalmente è un passaggio funestato dal timore di schiantarsi. Quanti ancora prendono passaggi in macchina? Quanti fanno l'autostop? Non so, non ne vedo più per strada. Io vengo da una generazione in cui a un certo punto si partiva con l'autostop e ho girato praticamente l'Europa, mi ricordo, l'anno prima della maturità o forse l'anno dopo, non ricordo bene. Partimmo con degli zaini, sembravamo Atlante, con quattro soldi in tasca, quattro veramente. Era bellissimo, arrivavamo, andavamo a Parigi, Bruxelles, mi ricordo, girammo la Germania, l'Austria, così. Non c'era una lira in tasca, ci si metteva lì lungo le autostrade, passammo tre giorni nella foresta nera, non ci saliva nessuno, come eravamo sporchi e puzzavamo, quindi passammo poi una fontanella, ci lavavamo tutti, ci pulimmo, nascondemmo gli zaini e riuscimmo ad andare avanti. C'erano gli autostoppisti più furbi che mettevano la donna a fare l'autostop, loro si nascondevano, sembra una cosa, una barzelletta, ma era così veramente. Le macchine inchiodavano, poi veniva fuori un puzzolente schifoso con la barba, i peli, le ascelle sudate, montava anche lui. Poi c'era l'inverso, c'erano naturalmente gli incidenti. Amiche mie raccontano storie indicibili di coppie che salgono le ragazze, poi gli propongono giochi a 4, 3, a 2, 1, a 6, oppure gli uomini che ci provano e via dicendo. Comunque alla fine si tornava a casa tutti vivi, almeno a loro. Qualcuno non tornava a casa, ma oggi ce lo siamo dimenticati perché si perde nelle cronache. Oggi l'autostop non esiste più, esiste meno, chi si fida più di prendere una persona in autostop? Non si vedono più nemmeno ai caselli autostrade le persone con il cartello scritto Firenze, Roma, Napoli, penso che sia anche proibito. Però ho scoperto che esiste una maniera alternativa, è molto 2.0, molto nuova, per usare i passaggi in auto. L'ho scoperto perché delle persone che conosco, ho visto che loro non hanno più nemmeno necessità di tirare fuori la macchina dal garage. Perché? Perché usano quelle degli altri. Esiste una possibilità di interconnessione tramite la rete in cui si digita. Io ho provato questa mattina a fare la prova con varie città d'Italia, dalle più note alle meno note, Pisa, Napoli, Caserta, Genova, Imperia, Savona, Perugia. Ho provato a mettere un po' di città e ho visto che, volendo, potrei usufruire di passaggi di persone che mi danno il luogo dell'appuntamento, mi danno l'orario, mi dicono che auto hanno, ho la loro foto, ho anche il giudizio di come guidano, se sono dei bravi conversatori, se sono persone simpatiche e via dicendo, e tutte le persone che hanno già usufruito del loro passaggio. E la tariffa? Potrei andare a Perugia con 10 euro, potrei andare a Bolzano con, mi sembra, 70 euro, qualcosa del genere. E potrei scegliermi anche la persona con cui andarci, vedere quanti posti ci sono in auto, che tipo di auto ha, come guida, qual è il livello di simpatia, vedere anche la foto, perché molte volte è anche piacevole scegliersi il compagno di viaggio. Questo è un sistema che si chiama BlaBlaCar, perché il bla bla è proprio il livello di capacità di conversare durante il viaggio, perché oltre a pagare poco c'è anche il fatto che probabilmente è piacevole conoscere persone nuove, quindi diventa una maniera di condividere amicizie, proprio nella linea più spiccata di un'applicazione che oggi usa il web come maniera per socializzare e per avere un servizio. Si stabilisce la tariffa in base ai chilometri fatti, è un contributo benzina, il pilota pilota, il proprietario dell'automobile naturalmente ha il suo vantaggio perché divide le spese di viaggio, gli altri hanno un passaggio a pochissimo prezzo. 800 24 00 24, quanti di voi usano questo sistema? Come ha cambiato la vostra vita? Come pensate che sia possibile, invece che affidarsi ai mezzi pubblici, ai mezzi di trasporto ufficiali, seguire questa linea trasversale molto di condivisione? 800 24 00 24. Abbiamo già Pietro al telefono. Pietro, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Pietro è un utente di BlaBlaCar, cioè usi questo tipo di maniera per spostarti? Sì, lo uso da un po' di tempo. L'ho scoperto quando ero in Francia, lì si chiama covoiturage, ma è la stessa piattaforma. L'ho cominciato ad usarlo perché, come dicevi, è molto comodo e soprattutto si risparmia. Che tipo di tratte fai te con questo sistema? Come scegli le persone che ti portano in giro? E qual è, diciamo, la spesa media per te? La scelta è soprattutto quella dell'orario, perché a seconda dei periodi in cui si viaggia, per esempio a ridosso delle feste, ce ne sono. La scelta è ovviamente... In questi giorni lo userai te? Sì, lo utilizzo proprio oggi. Oggi? Dove vai oggi? Io sono di Bari e torno a Bari. Ecco, facci capire, quando è che hai scelto, diciamo, il passaggio? Quando lo sei andato a cercare? Sono andato a sceglierlo avantieri. Ieri ho confermato il passaggio con la persona che mi accompagnerà e per oggi c'è l'appuntamento. E quanto spenderai? Spendo 25 euro. Se dovessi prendere il treno o l'autobus spenderei almeno 40, e l'altro vantaggio è che mi sono potuto scegliere l'orario di partenza, ed è questo il principale metodo attraverso cui ho scelto. E la persona anche ha scelto in base a qualche criterio estetico di persone? No, la persona che ho scelto non aveva la foto sul sito, quindi sarà... Ma cos'è, un uomo, donna, giovane? Una donna. Quanti anni? Una donna sulla trentina. Beh, quindi sarà anche un viaggio piacevole, puoi chiacchierare, conosci persone... Sì. E invece in Francia come viaggiavi? Sì, in Francia l'ho utilizzato per alcune tratte, anche perché in Francia... I treni costano un po' più che in Italia, quindi e probabilmente è anche molto più utilizzato rispetto in Italia, c'è un utilizzo molto più serio, però una volta mi è capitato di un aneddoto, ero in viaggio con un ragazzo forse più giovane di me, era una piccola macchina, una Citroën anche abbastanza vecchia, ed eravamo in autostrada e a un certo punto si è aperto il portellone di dietro, il bagaglio, però si è scoperchiata. Data la simpatia del ragazzo, non me la sono sentita di dare un giudizio negativo. Quindi tu dai giudizi in base al tuo viaggio, dai giudizio al pilota. Grazie. E buon viaggio. Grazie. Stefania, buongiorno. Buongiorno. Stefania, invece, mi sembra di capire, sei quella che mette la macchina, ecco, diciamo così, un utente. Sì, esatto. E lo fai spesso? Come ti è venuta l'idea? Risultati? Sì, io l'ho scoperto più di 2 anni fa, e la frequenza, diciamo, una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, dipende poi. Ecco, fammi capire Stefania, diciamo, il pilota è rintracciabile, cioè metti caso, io voglio essere sicuro che la persona con quale viaggio in qualche maniera possa rintracciarla, possano avere brutte sorprese. Tu hai dovuto dare il tuo telefono, la tua mail, i tuoi riferimenti a chi ti ha iscritto al servizio? Certo, perché sul sito comunque c'è tutto, sul sito è visibile tutto. Quindi diciamo è a prova, diciamo, di brutte sorprese o di malintenzionati? Sì, oddio, poi capita che trovi... Certo. Ti può capitare, però a me sinceramente non è mai successo niente, anzi. E come sei recensita te? Benissimo, penso una settantina di feedback a 5 stelle, una cosa del genere. E in media, diciamo, te riesci a viaggiare senza spese di benzina o limitatissime? Sì, esatto. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, come va? Tiriamo avanti, si vive. Tiriamo avanti, non è bello, Giacomo. Devo dirti. Adesso è il weekendone. Weekendone. Dipende quello che uno ha da fare nel weekendone. Dai, andiamo al punto. Esatto, il punto è questo. Adesso io sono un tradizionalista, quindi questo che mi sembra che analizziamo oggi è più una specie di car sharing. Sì, è un carpooling, uno, diciamo. Esatto, quindi a un certo punto uno condivide a soldi. Io sono rimasto all'antichissima, e quindi perché ho 55 anni, quindi io carico sistematicamente gli autostoppisti. Senza problemi. Quando ero sposato, mia moglie me ne diceva di ogni. Mia fidanzata ha caricato due autostoppisti inglesi, anche mi ha detto su così, poi ho fatto loro la foto, poi quando ha visto la foto ha detto ah, vabbè, per questo però hai fatto bene a prenderle su, però perché gentilezza pura, cioè non è per compartecipare soldi, le spese, no, io vedo uno che è lungo la strada, che ha bisogno di un passaggio e lo tiro su. Io anche, nonostante abbia 55 anni, provo ogni tanto a fare autostop perché andando in giro magari ho dei problemi. Come era una volta chi ti caricava, tutto a più gli offrivi un caffè e se volevi. Ma fiducia pura in quello che carichi o chi ti carica. Ecco, mi spieghi una cosa, perché io sono rimasto un po' indietro, io non ne vedo più di autostoppisti in giro. Raramente c'è. Ce ne sono, ma sono rispetto a una volta c'erano le file. Bravissimi, quasi ne vado in cerca io per caricare, ne ho caricato uno, io venendo giù la Cortina ne ho caricato uno questa settimana anche, ma io forse per snobismo li carico, ma poi a volte non rivolgo loro la parola. Ah, li carichi e basta. Sì, perché do proprio un passaggio e va. Beh, mica è un obbligo, mica uno deve essere obbligato. Dove va? Scusi, va là. Ah, benissimo, guardi, vado anch'io. Ma sono italiani o stranieri sono? Allora, gli stranieri, ci parlo con gli stranieri. Tipo una volta ho caricato dei tipi che sono nella zona più o meno di Venezia e ho detto, ma voi siete qua, siete vicino a Venezia? Ah, ma noi abbiamo visto, quello è vicinissimo, vi porto a Venezia, ma noi vi porto perché voi, passando di fianco a Venezia, non potete perdervi l'occasione di andare a Venezia a vederla, vi porto fino lì. E li ho portati lì, ho detto poi dopo prendete un treno, andate dove dovete andare a Udine, mi sembra. Bene, simpatico, lo faccio abitualmente. Grazie Alessandro, abbiamo capito che è ancora, diciamo, della vecchia scuola, nulla di organizzato, nessuna rete, va istinto. Giovanni velocemente. Buongiorno. Sì. Senta, io sono stato sia come driver che come passeggero, ho usufruito di BlaBlaCar. Sì. Però ecco, io mi chiedevo sia in una veste che nell'altra del problema di eventuali incidenti che possono succedere. Lei dice che si prende la colpa se succede un incidente. Cioè, è un incidente, il problema è che il sito, diciamo così, non ci dà, dal punto di vista formale, delle informazioni sul guidatore, sul... No, le informazioni tutte, informazioni ci sono tutte, c'è il telefono, c'è l'email, c'è la foto... Sì, certo, però dal punto di vista formale, cioè l'auto sulla quale viaggeremo, che massimale ha? Cioè, andiamo proprio sul pratico. Massimale, se la macchina circola è regola per circolare, poi uno è un servizio che mette le persone in relazione tra loro. Comunque, guardi, adesso diamo le informazioni del traffico, chiamiamo in seconda parte un responsabile BlaBlaCar e le porremo la sua domanda, così ci chiarirà anche tutto l'aspetto normativo. Lei, uno vuole andare con i piedi di piombo, dice sì, lo conosco, ma che massimale ha di assicurazione? Se ci andiamo a schiantare, ci coprirà l'assicurazione? Questo potrebbe accadere anche con l'amico che la carica in macchina per portarla la sera al cinema, esattamente lo stesso problema, secondo me. Ma sentiremo tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, parliamo di un nuovo servizio, nuovo, esiste da qualche anno, dal 2006, però è nuovo per chi ancora non lo conosce, come il vasto pubblico, la possibilità di girare tranquillamente in automobile con un servizio che mette in relazione dei conducenti di auto che devono fare dei viaggi con persone che fanno lo stesso tragitto e si dividono le spese di benzina. Mi dice un ascoltatore che mi rivela molte cose del non detto rispetto all'argomento, diciamo, dice oggi nessuno fa più l'autostop perché a nessuno piace essere classificato come disperato. I ricchi si sono mimetizzati e i poveri vivono tranquilli e vedi gente griffati, rotti. Cioè la gente non vuole avere lo stigma di morto di fame perché fa l'autostop, quindi nessuno siede più per strada. Preferiscono magari prendere il treno e non pagare il biglietto o comprare un'automobile con il leasing, usarla soltanto una felice stagione di 2 settimane in un posto bello, può dire non ho i soldi, restituirla indietro. Come fanno con le barche, come fanno con le auto di lusso molti italiani. Marco, buongiorno. Marco? Marco, ci sente o non ci sente? No, Marco è caduto. Abbiamo sulla 3 Andrea Saviani, buongiorno. Sì, buongiorno. Country manager italiano BlaBlaCar. Se al viva voce lo tolga però, perché sennò sentiamo un rimbombo brutto. Perfetto. Ecco, Andrea Saviani, ci chiedeva un ascoltatore poco fa in che maniera sono garantite le persone che usufruiscono di questi passaggi da un punto di vista assicurativo. Vediamo se questo, visto che per lui era un problema, come può risponderci. Beh, allora, intanto c'è da premettere che il conducente generalmente nel momento in cui condivide la propria auto con i passeggeri si sente quasi in obbligo di mantenere uno stile di guida molto più sicuro, e inoltre c'è anche da considerare che molti incidenti in Italia avvengono per il famoso colpo di sonno. Con due o tre passeggeri in auto, il colpo di sonno è più garantito anche chi guida, ecco, diciamo, non viaggiando solo. Sì, e comunque appunto la percentuale, la probabilità di incidenti è molto più bassa in un'auto condivisa rispetto ad un'auto in cui il conducente viaggia da solo. Per quanto riguarda la domanda specifica dello spettatore di prima, sicuramente l'RCA della persona, del conducente, copre eventuali danni anche riportati ai terzi trasportati. Penso qualunque assicurazione copre i terzi trasportati, se non, sì, mi sembra sì, però vuole essere sempre iper garantite le persone. Io penso che chi si mette alla guida con dei passeggeri dentro, siccome non è un servizio che si profila come auto pubblica, non è che fa il tassista, prende degli amici in macchina e ci dividiamo la benzina, è semplicemente una maniera di mettere in relazione persone che vogliono dividere la benzina con persone che vogliono un passaggio. Non ci vedo dietro, se vogliamo ogni cosa poi burocratizzarla e trasformarla in un'azienda, ma voi di BlaBlaCar in realtà qual è il business vostro poi? Di tutto questo che mettete in relazione le persone, non credo lo facciate soltanto per aiutare le persone a viaggiare meglio. Cosa ve ne viene a voi, per capire? Dov'è, diciamo, la ragione sociale di chi ha organizzato questa cosa? Sicuramente ci fa piacere mettere in contatto le persone, però effettivamente BlaBlaCar è un'azienda che ha il quartier generale in Francia, a Parigi, e nei mercati più sviluppati, quelli in cui siamo partiti prima, come la Francia e la Spagna, abbiamo attivato un meccanismo di monetizzazione basato su una commissione che viene riconosciuta a BlaBlaCar per ogni passaggio che viene acquistato sul sito. Questo attivo solo appunto nei due mercati che sono attualmente i più sviluppati per noi. Però è possibile che in un futuro si decida di estendere anche negli altri paesi. In Italia al momento è completamente gratuito e non c'è nessun tipo di monetizzazione, quindi non abbiamo... Diciamo, in Francia è prevista una tassa di iscrizione per usufruire del servizio, mi sembra logico, date un servizio. In realtà non si paga per l'iscrizione, non si paga una tassa di iscrizione, ma si riconosce una commissione di alcuni punti percentuali a BlaBlaCar per ogni passaggio che viene acquistato. Quindi il passeggero paga anticipatamente online il prezzo del passaggio, maggiorato di qualche punto percentuale, al conducente dopo il viaggio viene riconosciuto appunto il prezzo stabilito per il passaggio. Io ho visto che, diciamo, il conducente dell'automobile può anche scegliere in qualche maniera le cose che a lui danno fastidio, può dire non voglio fumatori a bordo, non voglio animali a bordo, può anche in qualche maniera selezionare il tipo di compagno di viaggio che preferisce. E all'inverso, chi viaggia può scegliere una persona taciturna, molto loquace, poco loquace. Ci sono altre caratteristiche che possono essere suggerite? Sì, infatti questo è il vantaggio di avere non solo un sito di annunci, di offerte di passaggio, ma una vera e propria community alla base di questo. Ecco, gestite una community web che comunque è un'area web che avrà i suoi spazi pubblicitari, il suo valore, ecco, questo è il fatto, probabilmente. Sì, abbiamo una community, quindi tutte le persone hanno un proprio nome, hanno molto spesso la foto, hanno un proprio profilo di feedback che quindi si sono costruiti nel tempo. Quindi è un social network finalizzato a viaggiare assieme, diciamo, può essere così? Sì, è assolutamente alla pari di una qualsiasi altra community in cui appunto ci sono persone che interagiscono tra di loro. Io leggo 2 milioni al mese di persone che viaggiano, non è che sono poche. Ma questo in tutte le vostre BlaBlaCar del mondo? 2 milioni? Sì, facciamo viaggiare 2 milioni di passeggeri, di persone al mese in 13 paesi europei attualmente. E la comunità quanti sono in tutto? Quanti sono persone registrate nel mondo a questa comunità? Abbiamo più di 10 milioni di utenti registrati. Beh, mi sembra un numero cospicuo. Comunque 10 milioni di persone registrate hanno un valore. Questo perché mi chiedi, cioè, ma cosa ci guadagna? È un valore, 10 persone profilate, registrate, che fanno un'attività, ha un valore. E giustamente c'è un'azienda che su questo lavora, mi sembra la cosa più logica. Marco, buongiorno. Sì, pronto, salve, sì. Buongiorno. Eccomi qua. Lei è un utente, viaggia trasportato o viaggia guidando? Tanto per no, fare. Io viaggio guidando, sono un agente di commercio e quindi viaggio molto. Quali sono i vantaggi per lei? Guardi, i vantaggi, io volevo proprio sottolineare l'aspetto del bla bla, nel senso che inizialmente io l'avevo così, ho sempre amato dare passaggi, insomma sono uno come l'utente, l'ascoltatore di prima che si fermerebbe a dare l'autostop, ma poi ho qualche remora, chissà chi mi sale in macchina. E così va bene, tranquillo. E invece così c'è un po' più di tranquillità. E poi è carino, come stavo dicendo, l'aspetto del bla bla, perché ho scoperto che è molto più interessante del fatto del contributo di viaggio, ecco, che alla fine è relativo, insomma, perché i costi. Tanto lei comunque è rimborsato i viaggi, no? No. Ah, si ripaga per conto suo. Agente di commercio, ma pago per conto mio. Però fa piacere. Beh, avere, però aiuta, diciamo, aiuta. Assolutamente sì, non si butta via nulla. E non viaggia mai solo, vuole mettere. Esatto, io parto la mattina molto presto. Viaggiare con una persona a fianco, infatti è interessante l'intervento che diceva lì il responsabile. No, l'abbiocco, io so, perché io soffro di abbiocco istantaneo, quindi so esattamente. Anche chi è un professionista e viaggia molto, purtroppo la mattina alle 5 l'abbiocco è dietro. Sì, uno si perde nei suoi pensieri, pensa essere a letto, invece sta guidando. E poi una cosa molto carina che ho vissuto, perché ho dato diversi passaggi, è quello di incontrare persone con le quali difficilmente si entrerebbe in contatto. Cioè, io, per dirne una, la volta scorsa da Roma a Rimini ho portato un ragazzo iraniano, col quale io non avrei mai avuto nulla a che fare, è uscita fuori una bella discussione, una bella, che io non sapevo neanche dove fosse lì. Questo, capisce, è il vantaggio del social networking, che allunga i nostri confini. Sì. Al ritorno partivo da Pisa per tornare a Roma, ho dato il passaggio a due militari e quindi ho visto due estremità diverse, no? Sai, lì il nazionalismo dei militari che tornavano giù e lì l'apertura mentale di un ragazzo che veniva a studiare in Italia dall'Iran. Quindi, insomma, è bello perché si incontrano persone con le quali difficilmente si sarebbe entrati in contatto. Oggi ho dato più che altro senso a questa trasmissione per far capire che in realtà la condivisione di cui si parla tanto e fa tanto paura, il social networking, non è soltanto mettere i selfie su Facebook, è anche questo, cominciare a pensare che l'umanità può riassemblarsi secondo metodologie che non necessariamente sono vincolate dallo spazio e dal tempo. Alla prossima settimana.